Finzione e realtà sono dotate di statuti solo apparentemente indipendenti. Voglio dire che nella percezione della gente non sempre ciò che nasce come finzione rimane sempre al suo posto. C'è anche il caso in cui questa finzione deborda o il contratto implicito in grazia del quale viene considerata tale viene improvvisamente disatteso. Un perché ci sarà? Faccio un paio di esempi. Il primo è quello di Arnold Schwarzenegger, l'attore americano. Sembra che abbia speso 3 miliardi dei suoi risparmi per togliersi la soddisfazione di far sparire dalla circolazione un suo vecchio film, Pumping Iron, un film del 1976. E non è che abbia voluto evitare, alle cineteche di tutto il mondo un film mediocre in più, ma ha voluto far sparire, per l'esattezza, far sparire le prove a carico di una propria cattiva condotta. Propria per interposta persona, tuttavia, perché la cattiva condotta di cui si parla è quella ascrivibile al personaggio da lui interpretato in quel film, un drogato e un violento. Nella convinzione di caricarsi di valori positivi, la persona Schwarzenegger non esita ad espropriare i suoi personaggi dei valori negativi. C'è da chiedersi se il problema è e rimane soltanto suo o piuttosto non coinvolga il suo pubblico, se si senta più amato interpretando soltanto personaggi virtuosi o è davvero più amato interpretando soltanto personaggi virtuosi. Il secondo esempio me lo fornisce Lietta Tornabuoni, recensendo l'ultimo film di Clint Eastwood, Un mondo perfetto. Come i critici cinematografici hanno quasi sempre il coraggio di fare, la Tornabuoni dice la sua sugli attori e spiega che Kevin Costner testualmente non è mai stato bravo quanto nella sua parte di cattivo buono, anche se, lo ripeto io, dovrebbe assolutamente dimagrire. Occhio e croce, la Tornabuoni qui, ecco, direi che non dista molto, in quanto a metodologia degli apparati critici, non dista molto dalla giovine signora che al cinema, alle mie spalle, sulle prime inquadrature del film dedicate al volto di Kevin Costner, ha detto a voce alta: cominciamo bene, cominciamo con un bonazzo. A Costner, allora, viene riconosciuto il ruolo che svolge, di attore, no? Ma soltanto fino a un certo punto, perché la pancia rimane sua e non appartiene al personaggio. Sullo schermo, in altre parole, c'è un doppio duttile e malleabile. Se dice una cosa, la dice uno; se tira un pugno, è sempre quello di prima a farlo. Ma se ha un po' di pancetta rispetto ai modelli di Bonazzi in auge, la pancetta ce l'ha quell'altro. Se poi gli sparano e lo bucherellano dappertutto, pancia compresa, uno muore e l'altro si salva, ma una cura dimagrante, come imperativo categorico dell'immaginario popolare, una cura dimagrante l'aspetta. Come un ambasciatore cui non sempre si riconosca di non portar pena, l'attore entra ed esce dai suoi personaggi sopportando quel tasso di razzismo, perché ogni costrutto ideologico eretto sulla forma del vivente conduce al razzismo, no? Quel tasso di razzismo che il momento della società cui lui appartiene gli elargisce. Anzi, non solo lo sopporta, ma in quanto veicolo di nuove associazioni fra forme e valori, contribuisce al rinnovo dei suoi fasti. La cosa, a ben vedere, non è incoraggiante. Vuol dire che al mondo c'è gente fra cui gli attori medesimi e i critici cinematografici, gente che non sanno stare ai patti. Entri al cinema e ne accetti la finzione, ma ne esci convinto, che so, di quanto sia antipatico quel tale. Il tale che dalla finzione protrae la sua vita nella sua realtà, che a quella finzione non appartiene. Un perché, dicevo, ci sarà. Il razzismo intanto c'è davvero, e non è una finzione cinematografica. Basterebbe dire che dal tipo fisico desumiamo tutto un patrimonio morale. Figuriamoci cosa non desumiamo da tutto un campionario di azioni, dichiarazioni, vita, morte e miracoli, come quelli a cui guardiamo nel film. E poi non è mica vero che quel contratto che implicitamente firmiamo nel momento stesso in cui entriamo in una sala cinematografica ci vincola alla considerazione di pure e semplici finzioni. Non è vero. Come finto accettiamo l'evento complessivo, ma dopo averlo segmentato in dettagli cui almeno in parte concediamo un lasciapassare di autenticità per un eventuale prosieguo oltre lo schermo, all'insegna del fatto che anche loro prima o poi, da quel paradiso tutto speciale, prima o poi tornano nella nostra stessa barca. Se no come potrebbero un maschietto ed una femminuccia desiderare davvero di uscire a cena, che so, rispettivamente con Kim Basinger o con Kevin Costner?